Palla Spicchi con Carlo Genta. Buonasera a tutti. 1 marzo 2009, 21 marzo 2010 sono due date in qualche modo storiche nel piccolo libro della pallacanestro italiana, perché Siena oggi è tornata a perdere una partita a un anno e 20 giorni di distanza dopo 41 vittorie consecutive. Ha perso a Roma contro la più bella lottomatica della stagione, sto dicendo una banalità, 93-85. Questo è il risultato finale. Oggi all'ora di pranzo importantissima la vittoria di Caserta Cremona, importantissima per gli equilibri di testa così come di coda della classifica, scontata la vittoria larghissima di Ferrara su a Sebastiani, e poi altri risultati molto interessanti in chiave playoff che si allontanano per Treviso, che perde anche a Varese 90-82. Milano batte facilmente la Banca Tercasteramo 78-56, e questa era stata una partita dei playoff importante dei quarti di finale l'anno scorso. Cantù che vince una partita determinante in trasferta a Biella, anche qui doppio valore perché per Cantù significa un passo lungo verso i playoff, per Biella significa post season ormai pressoché irraggiungibile. La Montegranaro non molla il secondo posto e vince anche a Pesaro 93-89, e la Scavolini è messa davvero male in fondo alla classifica, io credo, classifica di Dario Ricci. Sì, buonasera. Allora, Siena in testa con 42 punti, Caserta e Montegranaro appaiate al secondo posto con 30, Milano 28, Bologna e Cantù 26, Avellino e Roma 24, queste al momento le prime 8. Poi Treviso a quota 20, Biella, Teramo e Varese a 18, Cremona a 16 punti, Ferrara e Pesaro a 14, Napoli a meno 8. In Lega 2, così abbiamo il quadro completo dei numeri prima di cominciare ad esplorarli con attenzione. In Lega 2, dicevo, in trasferta Casal Pusterlengo su Casale Monferrato 68-61, Brindisi batte Imola 98-76, Sassari batte Venezia 88-65, Pistoia supera Vigevano 82-59, Rimini torna a vincere, salvata in settimana sul fronte finanziario economico dopo una lunghissima serie di sconfitte. Rimini batte Reggio Emilia 83-70, mentre vince in trasferta Latina Udine, la Snyder Udine 86-63. Direi di cominciare, come logico e naturale, da una delle notizie più grandi di questa domenica sportiva tutta compresa. Fabrizio Fabri da Roma, buonasera. Sì, buonasera a tutti. È chiaramente una partita importante per i numeri, perché dopo 41 vittorie consecutive Roma interrompe la striscia di Siena, ma è importantissima per Roma proprio perché, leggevate la classifica, in funzione playoff sono due punti pesantissimi. Uno degli eroi della partita è Angelo Gigli, unico romano in campo, protagonista insieme alla truppa di italiani. Angelo, siete stati assolutamente la parte trainante di questa partita, te Luca Vitali che è qui accanto, Jacopo Giachetti, avete risposto a quello che Matteo Bonicioli ha detto, cioè il consegnarvi le responsabilità, le chiavi di questa squadra? Sì, vincere con Siena e vincere con gli anni protagonisti veramente il massimo, non ci siamo tirati indietro di fronte alle responsabilità, abbiamo preso tutte quelle che ci sono capitate al tiro, grazie a Dio è andata bene, adesso come ci siamo detto nei spogliatoi, questo non deve essere un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Adesso loro forse all'inizio ci hanno un pochino sottovalutato, poi tutte le volte che andavamo sopra loro rientravano sempre, abbiamo fatto veramente un'ottima partita tirando con percentuali incredibili. Adesso siamo come questa sapere della nostra forza, sicuramente non siamo ancora a livello di Siena, però stiamo lavorando sulla buona strada. Tra l'altro fra i protagonisti ho dimenticato, visto che parlavamo di percentuali da tre punti, anche Gigi D'Adome che ha fatto un primo quarto veramente da far spellare le mani. E Angelo, tra l'altro in questa vittoria una chiave tattica particolare, avete deciso di difendere con il vostro numero 3, in quel caso da Tome, poi quando è stato cambiato chiunque è entrato al suo posto, sul 4 avversario e viceversa. Come mai questa scelta tattica? Vedendo e rivedendo i video di Siena abbiamo visto che uno dei punti di forza era il post-up di Sato contro gli altri esterni, dove poteva sfruttare il maggior fisico, la maggiore potenza, quindi abbiamo deciso di provare questa opzione. Ringrazio il coach perché mi ha dato la responsabilità di marcare quello che consideravamo l'uomo più pericoloso della squadra, spero di averlo ripagato nella giusta maniera e magari in futuro si ripeterà una cosa del genere. In questa maniera abbiamo evitato che Gigi si caricasse di falli e che esprimesse tutto il suo potenziale in attacco, ci siamo riusciti, quindi sicuramente bisogna fare i complimenti al coach e penso che anche noi giocatori siamo stati bravi ad attuarlo sul campo. Credo che ora per Roma la cosa importante è quella di acquisire una mentalità giusta anche in trasferta. Sì, in trasferta sicuramente siamo un pochetto indietro rispetto alle partite che offriamo, che facciamo in casa. Ripeto, adesso dobbiamo essere bravi a sfruttare questa iniezione di entusiasmo per magari per aprire una striscia, per piazzarci il meglio possibile per la griglia playoff. Andiamo a Cantù, che non sarà facile. Questi ieri, oggi hanno vinto contro su un campo difficilissimo come Biella, quindi non sarà facile. Però dopo la partita di oggi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e fare la nostra partita. Prima di congedarti, un bel messaggio che avete mandato al nuovo commissario tecnico della nazionale, voi italiani di Roma. Sì, l'abbiamo mandato sicuramente anche a lui, ma anche un po' a tutto il movimento. Molti dicevano che non si poteva vincere con gli italiani. Questo adesso sarà a noi dimostrare se è vero, però abbiamo dimostrato oggi che se gli italiani ci sono possono aiutare a battere Siena, quindi bel messaggio che si manda, sì, sicuramente al coach, ma un pochino a tutto il movimento. Perfetto, ringraziamo Angelo Gigli. E Fabrizio. Sì, eccomi Carlo. Volevo riassumere anche in qualche numero questa partita. Roma sempre in controllo, anche con margini ampi in certi brani della partita. Siena, che però ovviamente non ha mollato nulla, è spesso riuscita a tornare sotto. Sì, diciamo che dal più 23 di Roma l'idea di una partita chiusa poteva esserci solo per chi non conosce le grandi caratteristiche della squadra toscana di Pianigiani, e sul meno 6 il gelo che è calato sul palo automatica ha fatto capire quanto magari anche fantasmi del passato ci siano stati. Siena in questa partita è stata rimessa in gioco dai protagonisti, diciamo, italiani, perché poi c'è stato anche Carraretto che è stato decisivo ed è stata un po' tradita dal grande ex, e qui accanto a noi sta uscendo David Hawkins, è stato assolutamente uno dei giocatori che ha dato di meno in questa partita. Io ad un passo, Carlo, se tu pensi che sì, ci sia ancora tempo, Jacopo Giachetti. Sì, come no. Il protagonista numero uno di questa partita da 20 punti contro Terrell McIntyre. Fate voi, prego Fabrizio. A volo, ringraziamo il collega Spiridigliozzi della Gazzetta. Jacopo, c'è stato un bel playmaker, ci sono stati due bei playmaker italiani che sono in campo, Vitali e Giachetti. Sì, è stata davvero un'ottima partita da parte di tutti. Luca è stato bravissimo oggi, e niente, tutta la squadra abbiamo risposto alla grande, e niente, abbiamo dato un segnale forte al campionato e vogliamo arrivare ora più in alto possibile per poi giocarci tutto playoff. Che cosa è cambiato per Jacopo Giachetti in questa fase? Spesso qui a Roma è stato protagonista di piccoli periodi di grandi prestazioni e poi dimenticato in panchina. Invece mi pare che Matteo Bonicioli abbia fatto una scelta precisa: no a Dixon, squadra in mano a te Vitali. È stata una scelta importante da parte del coach, mi fa piacere, e ora sta a me e Luca da qui alla fine ripagare la fiducia di tutto lo staff per cercare di convincere il presidente a continuare questo progetto e semmai anche dare un segnale alle altre squadre per insistere sugli italiani, che alla fine se giocano fanno vedere il proprio valore. Bonicioli dice che Giachetti in questo momento è più forte di Poeta. Siamo amici e Peppe ci scherziamo su, alla fine più forte, meno forte, alla fine contano i risultati, per noi oggi ci godiamo questa grande vittoria che è stata davvero importante. Spieghiamo, questo era il capitano Alessandro Tonolli. Eravamo in diretta, c'è cioè un po' chiaramente di in questo momento i ragazzi sono ovviamente euforici. Mio caro Fabrizio, sono i rumori Jacopo, della parole, appunto Jacopo, e bisogna dare continuità. Sì, bisogna continuare su questa strada, da qui alla fine sarà importantissimo vincere il più possibile per poi qualificarsi per i playoff, magari non ottavi incontrando subito Siena. Perfetto, eccomi Carlo. Perfetto, no, ma sono i rumori della vittoria, sono anche spesso più belli delle parole stesse, insomma, quelli che abbiamo sentito. Grazie Fabrizio, grazie. Perfetto, davvero. Un saluto. Grazie davvero a Fabrizio Fabri. Io Dario resto convinto di una cosa: se c'è un personaggio in Italia che può dar fastidio a Siena, poi alla fine non succede nulla perché Siena va a vincere lo scudetto. Non illudiamoci, la storia non cambierà con questo 93-85. Però sono convinto che c'è uno in Italia che può dar fastidio a Siena, che può fare venire un minimo di prurito, è Matteo Bonicioli, che ha parlato così dopo la partita. Il mio mestiere, oltre che spaziature, schemi e rimesse, è anche convincere un gruppo di persone che si può fare. Allora in questo contesto molti sorridono quando io dico che si può fare, lo sorridevano quando lo dicevo a Avellino, sorridevano quando lo dicevo a Bologna, adesso forse cominceranno a sorridere un po' meno perché si può fare. Lavorando in una maniera esagerata, essendo molto duro con i giocatori, pretendendo che loro siano molto duri con se stessi, e sapendo che siamo in ritardo, perché questa vittoria di oggi da un punto di vista numerico vale qualcosa di più di 2 punti. Abbiamo giocato una grande partita togliendo un americano, cioè non aggiungendo Gesù Bambino, ma togliendo un americano e dicendo ai giocatori italiani: guardate bambini, che adesso non ci sono più le coperte di Linus, non gioco perché questo, non gioco perché quell'altro. Adesso dovete produrre voi. Giachetti ha dimostrato di essere in questo momento uno dei migliori playmaker d'Italia, vincendo il suo confronto con McIntyre, che a tutto ci stava meno che a perdere. Datome ha giocato una partita formidabile, perché ha aperto la gara con un 4 su 4 3 punti, con una determinazione da giocatore della ex Jugoslavia, perché Gigli si è dato consistenza e perché Vitali ha dato quello che deve dare sempre, saggezza. Io da una vita che gli sto dicendo, anche in termini molto volgari, devo dirvi, che lui non deve fare un assist, una palla persa, un assist, una palla persa. Lui deve fare un passaggio, poi un altro passaggio, poi un altro passaggio, poi un altro passaggio. Siamo arrivati a questo risultato lavorando molto. Se vogliamo recuperare ancora, entrare nei playoff in una posizione convincente, fermo restando che possiamo vincere con tutti, dobbiamo continuare a lavorare. Palla spicchi. Sta per iniziare Sampdoria Juventus, Cassano contro Del Piero, se volete poi gli aggiornamenti in serata. Torniamo a questa giornata di basket così importante. Prima di andare a Milano per la vittoria dell'Armani su Teramo, Dario Ricci vi dà qualche numero di questa vittoria della Lottomatica Roma sulla Montepaschi. Sì, dicevamo i 20 punti di Jacopo Giachetti e poi la consistenza di Gigli, diceva Bonicelli, beh, si è concretizzata appunto in 10 punti e ben 9 rimbalzi, poi 13 per Jabir, 1 su 3 da 3, ma fondamentale la sua tripla per spezzare il ritorno di Siena, 12 punti per Andre Hudson con 4 rimbalzi e 12 punti anche per Datome, come sentivamo, frutto di un 4 su 4 da 3 punti. Da sottolineare che Roma ha vinto il duello sia a rimbalzi 32 a 25 sia anche per quanto riguarda la percentuale da 3, 59% per i romani e fatto insolito, Roma 100% dalla lunetta, 22 su 22, Siena appena il 64.5, 20 su 31, Carlo. Sì, altro dato importante di quando Siena soffre la percentuale di tiro da 3 punti, 9 su 22 per i toscani, si diceva prima di David Hawkins, 20 minuti, 1 punto, con 3 tiri dal campo sbagliati naturalmente, meno 2 di valutazione. Adesso andiamo a Milano per la vittoria dell'Armani Jeans, che dunque resta nella scia della coppia Caserta-Montegranaro, che però colpi attualmente non ne perde. Roberto Nardella. Allora, buonasera Caro, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Vince l'Armani Jeans Milano contro la Banca Terca Seramo 78-56, grazie soprattutto all'ottima prestazione di un più che concreto Mason Rocca, 21 punti per il sindaco di Milano con un perfetto 9 su 9 dal campo, a cui ha aggiunto anche 8 rimbalzi per un 31 di valutazione. L'Olimpia scappa via grazie a un break di 12-0 nel primo parziale che le permette di arrivare sul 20-9 e di chiudere la prima frazione sul 20-14. Nel secondo periodo arriva un altro parziale, questa volta di 7-0, che porta l'Armani Gis dal 26-19 al 33-19. Jurak prova a tenere in piedi i suoi, arriva la tripla sullo scadere dei 24 secondi nell'ultimo possesso del primo tempo da parte della Banca Terca Stermo, finisce 39-27 la prima frazione, però nella seconda metà Milano innesta il turbo con Mike Cole che si iscrive alla partita, Uver e Diner provano a tenere in piedi la Banca Tercas, però Bulleri con due triple e poi anche un 2 su 2 dalla netta porta Milano al 60-44, con cui si chiude il terzo quarto. Poi dopo nel quarto periodo arriva per l'Armani Gis il protagonista che non ti aspetti, prima c'è Mason Rocca che chiude la sua partita con l'ennesimo canestro, il perfetto 9 su 9 dal campo di cui parlavo prima, poi per l'Armani sale in cattedra Alex Hacker, 15 punti per lui partendo dalla panchina con 4 4 su 7 da 2 e 1 su 2 da 3, 5 su 9 complessivo dal campo e anche 4 su 4 tiri liberi, tutti suoi i punti determinanti nell'ultimo disperato tentativo di rimonta della banca Terkas trascinata da Stanescu, però Acker la ricaccia indietro, mette il canestro acrobatico del più 20, serve l'assist a Mancinelli che chiude con la schiacciata del più 22 finale con cui l'Armani si aggiudica la vittoria contro la banca Terkas. E magari domani fa le valigie Acker, no? Esattamente, il sentore settimanale su Acker era quello. Il problema forse per Bucchi è che chiunque sale sul banco degli imputati in settimana, poi dopo la domenica è solito tirare fuori la prestazione 5-6 lusso. Questa volta è capitata ad Acker, per ora non ci sono state indicazioni di nessun tipo ufficiali in conferenza stampa. Vedremo poi che cosa accadrà nei prossimi giorni. Grazie a Roberto Nardella. Nei prossimi giorni Acker chiuderà quelle valigie, partirà, arriverà qui in Tel Woods e poi il prossimo americano in discussione farà un'altra grande partita. Fa un po' fatica a crescere. Vittoria determinante, dicevamo prima, di malacitata anche Bonicioli, che ha detto adesso il nostro pensiero andare a vincere a Cantù che oggi ha vinto a Biella, che ha allungato le mani verso i playoff e che li ha allontanati forse definitivamente sulla fantastica semifinalista dell'anno scorso, cioè l'Angelico. Sì, 86-75 per la NGC Medical sul campo dell'Angelico Biella, protagonista Benjamin Ortner, 24 punti in 28 minuti con 9 su 12 da 2 punti, 6 su 6 a liberi e anche 5 rimbalzi per un 27 di valutazione. Poi pesano nel borsino Canturino anche 14 punti di Martin Liunen, 4 su 4 da 2, 2 su 2 da 3 punti, percorso netto al tiro, i 16 punti del cardinal Nicolas Mazzarino, 16 punti in 29 minuti e poi 13 punti con Vladimir Mikoz. Per quanto riguarda invece il tabellino di Biella, migliore in campo direi Pietro Aradori, 22 punti, 5 su 10 da 2, 1 su 5 da 3, 3 rimbalzi, anche 2 recuperi per un 22 di valutazione e poi 11 punti ma appena 4 rimbalzi per Luca Garri sotto le prance. Le plance, 13 punti anche per Joe Smith. Insomma, regalare un americano è molto difficile, no? Per una partita ti può riuscire, poi per una squadra come Biella diventa sofferenza. Chessa, che ha trovato con l'assenza ora di Guillermo Diaz grande spazio in campo, 26 minuti, 8 punti, però è chiaro che non può spaccare le partite come ha fatto due domeniche fa proprio con Roma. Io direi che tornando alla notizia di giornate, prima di andare ad indagare sulla vittoria di Montegranaro nel derby con Pesaro, vi farei sentire il commento che abbiamo registrato con Flavio Tranquillo, impegnato ora in telecronaca ad Avellino, perché oggi c'è una partita anche serale appena iniziata, siamo al decimo con Avellino davanti di 2 punti, 18-16 sulla Virtus Bologna. La telecronaca su Sky di Flavio Tranquillo, noi Flavio Tranquillo l'abbiamo intercettato per avere un suo commento sulla notizia di giornata. È a suo modo una giornata storica per la Serie di basket, storica in assoluto perché Siena non perdeva addirittura dall'inizio del mese di marzo della passata stagione, quando ha perso una gara senza significato sul campo della Fortitudo, che poi addirittura retrocesse. Perde a Roma, è una partita diversa contro un avversario diverso, una partita più agonistica e una vittoria senz'altro più significativa per la Lottomatica, che comunque deve ancora guadagnarsi i playoff. Uno dei piccoli paradossi di questa partita. L'altro paradosso è che Siena ha perso sulle armi che di solito padroneggia meglio, la difesa e i tiri liberi, ancora di più in un primo tempo in cui, perdendo uomini a destra e a manca e sbagliando 9 tiri liberi su 19, ha permesso alla Lottomatica di prendere il largo. Vera, non vera, quanto vera questa vittoria? Ce lo potrà dire solo il futuro, ma una cosa è sicura: la formazione di Matteo Bonicioli ha dimostrato che se hai nella testa la voglia di provarci, e devi averla per 40 minuti, perché 30, 35, 39 non bastano, l'impresa è possibile. Io ritengo sempre si tratti di impresa, però questo apre comunque un capitolo diverso nella piccola grande storia del nostro campionato. Questo era Flavio Tranquillo, oggi primo giorno di primavera, speriamo che cominci una stagione nuova anche per il nostro campionato, anche se vi confesso io continuo a crederci pochino, continuo a credere, come ho detto prima, nel fatto che se si troveranno di fronte nei playoff, Bonicioli darà fastidio a Siena verbalmente, tatticamente, come abbiamo sentito con la mossa di oggi del 3 che marca il 4, del 4 che marca il 3 per creare degli imbarazzi a Siena e a Romain Sato in pivot basso. Insomma, tutte alchimie, tutte strategie che a Siena possono dar fastidio, ma a Siena, ripeto, dà fastidio il personaggio più che altro Matteo Bonicioli. Dario, c'era questo derby marchigiano, Montegranaro ha vinto a Pesaro e soprattutto ha inguaiato la Scavo Spar, che è stata raggiunta da Ferrari ed ora è penultima, area addirittura di retrocessione possibile per la Scavo Spar. Eh sì, area difficile per i pesaresi, battuti in casa per 89-93, paradosso che Pesaro abbia tirato con il 58.6% da 2 e con il 57.1% da 3, nettamente meglio di Montegranaro, che ha tirato da 2 col 45% e con un ottimo 52% da 3, e però la partita è andata a Montegranaro che... Abbiamo Mirko Facenda che in un minuto ce la racconta. Benissimo. Mirko. Sì, vittoria direi meritata della Sigma Coating Montegranaro. Dall'altra parte una partita inspiegabile di Marquis Green, 35 minuti, ha fatto 4 tiri in totale, di buono c'è da prendere i 9 assist, è stato ridicolizzato letteralmente da Maestranzi nel primo tempo, con Maestranzi che ha messo a segno 16 punti nei primi 20 minuti di gioco, e quindi direi una Scavolini Spar che sicuramente merita la posizione dov'è, e la cosa preoccupante è che non è a questo punto facile uscirne, perché ancora una volta la formazione di coach Dalmonte ha subito ben 93 punti in casa, e anche coach Dalmonte a fine partita nelle dichiarazioni post partita ha detto che lui non è più disposto giustamente a metterci la faccia per quanto riguarda certi giocatori, chiaramente non ha fatto nomi, però il riferimento è chiaro a Marquis Green, a Michael Hicks e a qualche altro giocatore che in questo momento non sta rendendo sui livelli che forse la Scavolini Spar si aspettava in questa stagione. Dunque nona vittoria consecutiva alla premiata, vittoria meritata, e Scavolini Spar sempre più in fondo alla classifica. Sempre più in fondo alla classifica, grazie Mirko Facenda, con rapporti personali molto difficili, ma d'altra parte Dalmonte, giocatori come X soprattutto, come Marquis Green, non si sono mai presi, ma siccome per questioni più che personali, per questioni tattiche, cioè la pallacanestro dell'uno fa fatica a sposarsi con le caratteristiche degli altri. Invece il pesarese, per quel che può contare, pesarese Daniele Cinciarini vince almeno sul piano dei punti il derby con il fratello Andrea, che però sarà senz'altro più felice per tutto il resto, insomma, sì, 7 punti contro 3. Infatti 7-3, ma insomma è quello che brinda stasera è il Cinciarini di Montegranaro. È il Cinciarini di Montegranaro. Bene, chiudiamo qui questo appuntamento con Palla Spicchi, vi lascio Dario Ricci per gli aggiornamenti su Sampdoria Juventus 0-0 all'11esimo, domani Gigi Garanzini dalle 2 alle 3. Venerdì con me Palla a Spicchi dalle 14 alle 15, naturalmente come sempre sarà credo anche una puntata interessante alla luce, sulla lunga luce dei risultati di oggi. Alla prossima!